quotidiani che portano interviste oggi, interviste pesanti richiamate dalle prime pagine, a cominciare dal Sole 24 Ore, che titola Draghi, cruciale riformare il lavoro. Nessuna alternativa al risanamento dei conti, che va accompagnato da liberalizzazione, un'altra delle parole d'ordine della giornata, e riforma del lavoro. Quindi insomma i due grandi temi dell'attualità politica anche nazionale e non solo. In un'intervista a Wall Street Journal, il presidente BCE Mario Draghi riconosce che le misure anti-deficit varate dall'Eurozona avranno effetti recessivi nel breve, ma una marcia indietro farebbe aumentare spread e costi di finanziamento. Per il Corriere della Sera invece l'intervista del giorno è quella all'amministratore delegato del Lingotto, Marchionne. Marchionne, la Fiat e l'Italia, vi racconto tutto, una lunga conversazione con Massimo Mucchetti, tra l'altro alcuni, come dire, un'intervista anche animata, e in cui non mancano i momenti proprio di disappunto esplicito dell'amministratore delegato. Tra le vari richiami appunto dei suoi passaggi ce n'è uno che piuttosto colpisce, dice: è razzista dire che sono un uomo senza patria. Insomma, alcuni elementi che caratterizzano anche la personalità, la storia di Marchionne, che saltano, emergono da questa intervista. Quindi due interviste che approfondiremo tra un po', ma naturalmente poi ci sono i temi di giornata. Dunque, nuovo fisco e piano sul lavoro, gli ammortizzatori cambiano dal 2017, gelo delle parti sociali e lite sulle liberalizzazioni. Napolitano di nuovo interviene, dice ai partiti no agli emendamenti fuori tema. Per La Stampa è appunto emendamenti, lo stop del Colle. Al centro pagina del quotidiano di Torino sono i 100 giorni di Mario Monti. Con il professore l'Italia è di nuovo credibile, ma lobby e partiti frenano la sua azione. Questa la scelta di apertura della Stampa, e identico titolo per Repubblica, quindi emendamenti, lo stop del Colle. Nel taglio centrale troviamo invece un altro tema, che è quello degli stipendi dei manager di Stato. Ecco i super stipendi. Al primo posto il capo della polizia con 620.000 euro, ai presidenti delle autorità sono 475.000. Quindi diciamo nell'impianto principale anche Repubblica richiama queste due tematiche, quello appunto dei decreti, che peraltro appunto stamattina è il decreto sul fisco, e che vengono portati avanti dal governo Monti, è quello degli stipendi, insomma della grande discorso della trasparenza. Questa è la settimana in cui abbiamo letto quelli che sono gli stipendi dei ministri, con relativi commenti, richieste di precisazione. Vedremo, ce n'è ancora qualcuna che viene portata avanti dal quotidiano. Bene, i manager di Stato, il termine scadeva ieri, e le liste sono arrivate, anche se vedremo con alcuni punti rimasti in sospeso. Altri temi ancora da Repubblica: i single, consumi boom e volontariato al single è già oltre la crisi, un racconto sociale, sociologico dell'Italia che cambia. In alcune grandi città del nord come Milano, dove a vivere solo il 43% dei cittadini, i single sono già la categoria più numerosa, e si attende il record di 8 milioni di single registrati nel 2011. Un interessante percorso appunto in una realtà sempre più importante, che vedremo viene descritta anche al di fuori di certi schemi, un po' di certi modelli che per tanto tempo sono stati considerati inevitabilmente legati a quello che è la figura e la vita del single. Ma andiamo avanti. Il Messaggero è scontro sulle liberalizzazioni. Dunque, sul Messaggero peraltro oggi il fondo, l'editoriale è firmato da Oscar Giannino, lo sentirete più tardi. Il concetto comunque è chiaro, dice: non bisogna cedere alle lobby. Si può dire? Scrive Giannino. Sulle liberalizzazioni il governo si è incartato. In Senato ieri sono saltate le riunioni della Commissione Industria che doveva continuare a esaminare gli emendamenti. Prima è saltata quella del pomeriggio, poi anche quella della sera. Se ne riparla oggi dopo pranzo. Alle prese con centinaia di richieste di modifica, il governo ha capito che rischiava la pessima figura, il moltiplicarsi della marcia indietro sui taxi di 2 giorni fa. Per questo Palazzo Chigi ha richiamato i sottosegretari incaricati della trattativa. Parola d'ordine, rialzare la guardia, serrare i ranghi. Questa dunque è la sintesi di una giornata di giornate ovviamente molto intense di trattativa continua, di richieste continue che appunto in tradotto in termini di emendamenti. Celentano attacca la RAI, c'è anche questo aspetto sulla prima del Messaggero. Credo che l'errore sia stato proprio nel meccanismo di conduzione della RAI. Finché i partiti continueranno a litigarsela sarà preda di sotterfugi, intrighi e sospetti a danno del paese. Questa è la sintesi che il Messaggero fa dell'intervento di ieri sera, appunto, di Celentano ai microfoni di Servizio Pubblico, ed è appunto un richiamo ai temi che poi vengono sviluppati ovviamente all'interno. Un altro grande titolo invece, ed è l'apertura scelta dai quotidiani dei Vescovi su una notizia dell'Avvenire che è presente ovunque, ma appunto non in questi termini, è mai più ciechi respingimenti. La Corte Europea di Strasburgo sanziona l'Italia per il caso delle espulsioni collettive verso la Libia. Allora direi che ci fermiamo qui, poi ripartiamo da questo punto e cerchiamo di tagliare alcuni dei quotidiani in edicola per vedere come questa notizia sia stata recepita dalle diverse testate. A tra poco. 24 mattino. 7:35 minuti, i fatti che appunto ci spiegano anche i titoli oggi in molte testate, quello dell'Avvenire che vi segnalavo, mai più ciechi e respingimenti, risalgono al maggio del 2009. Le autorità navali intercettano una nave con a bordo circa 200 persone di nazionalità somala ed eritrea. I migranti sono trasbordati su imbarcazione italiana e riaccompagnati a Tripoli, questo contro la loro volontà. Ecco, da quella decisione, da quella scelta appunto del governo italiano si innesca un meccanismo che è quello di fatto di una denuncia di un gruppo di somali ed eritrei che in totale sono 11 somali, 13 eritrei, che sostengono che l'Italia li ha esposti in questo modo al rischio di trattamenti inumani da parte delle autorità libiche e di quelle del paese di origine. Così si arriva alla sentenza. Come vi ho detto, da un lato c'è un titolo a tutta pagina in una appunto posizione di fatto che racconta e sostiene implicitamente la decisione. Dall'altro vediamo per esempio la Padania, quindi il ministro degli interni dell'epoca Maroni ha già parlato su questa vicenda, ma il titolo è esplicito: l'Europa ordina porte aperte ai clandestini, e la definisce la Padania incredibile sentenza politica della Corte Europea dei diritti dell'uomo che condanna il nostro paese per i respingimenti dei libici irregolari. Bossi dice presto cambierà la musica. Intanto sul voto conferma la Lega corre da sola. Insomma, queste direi che è lo spettro in cui il tema dell'immigrazione è rianimato da questa decisione della Corte appunto europea si muove. E Bossi afferma: abbiamo fermato l'invasione, rivendica la ragione appunto delle scelte fatte a suo tempo. Da questo punto di vista vi segnalo anche un commento di un magistrato appunto con una lunga esperienza, tocca un tema, se vogliamo un classico anche della retorica della cultura italiana, è Vladimiro Zagrebelsky. Lo trovate tra le pagine dei commenti della Stampa di Torino. Il titolo è: noi brava gente, quindi italiane brava gente, non è sempre vero che non è sempre vero, e scrive Zagrebelsky, qualche volta c'è scarto tra realtà e la diffusa convinzione di essere noi all'avanguardia delle nazioni civili. Spiega il fatto, ricostruisce l'evento e poi, diciamo, per dovere di sintesi, passo e vi leggo un altro passaggio. La violazione di cui l'Italia è stata ritenuta responsabile, scrive Zagrebelsky, è tra le più gravi. Colpisce che essa si riferisca ad azioni che gli equipaggi delle navi militari sono stati obbligati a compiere dopo che in altre circostanze quello stesso personale militare si era guadagnato l'ammirazione per l'opera efficace e rischiosa compiuta, secondo la legge del mare, per soccorrere battelli in difficoltà, scortarli a terra, salvarne da morte gli occupanti. Per questa loro attività quegli equipaggi erano stati elogiati dal commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa. La Corte europea ha anche ritenuto che l'Italia abbia commesso una violazione del divieto di espulsione collettiva, di espulsione cioè in blocco, senza esame della situazione individuale di ciascuna persona, senza identificazione e accertamento dei motivi che inducono la persona alla fuga del suo paese. Non si può accertare, prosegue Zagrebelsky, se l'espulsione crei pericolo per la vita o l'incolumità delle persone appunto aumenti il rischio di persecuzione politica o religiosa o altro. Il diritto al rifugio che un migrante può avere non è assicurato quando, come è avvenuto, non si accerti la condizione personale di ciascuno. La pratica della consegna collettiva alla Libia di tutti i migranti raccolti in mare ha evidentemente impedito ogni esame individuale, a maggior ragione il ricorso a un giudice. Ci sono molti articoli su questo tema, ci sono naturalmente i commenti. Breve quello del primo ministro, del premier Monti: alla luce dell'analisi di questa sentenza prenderemo decisioni per quanto riguarda il futuro. Ce ne sono, ripeto, moltissimi, ma direi che proseguiamo e passiamo oltre. Ancora sullo stesso tema, ma nella titolazione, è l'unità, diritti umani, l'Europa condanna il governo Berlusconi, e questa è la scelta di apertura questa mattina, appunto, dell'Unità. Cambiamo davvero tema con il giornale di Sallustri, che oggi peraltro riporta appunto un editoriale di Vittorio Feltri, ma nella fotografia centrale, nell'immagine a centropagina, torna Celentano, e Celentano ora vede la Madonna, fine predica mai. Adriano Celentano ieri è intervenuto nella trasmissione di Michele Santoro. Il titolo d'apertura però è dedicato ai redditi dei burocrati: lo sceriffo delle tasse guadagna più di Obama. Per Befera 600.000 euro l'anno, i nostri manager pubblici sono i più pagati dell'Ocse. Alla faccia della casta dei politici, scrive Gabriele Villa sulla prima, appunto, del giornale, c'è una casta di burocrati che incassa senza che nessun popolo viola si indigno battaciglio. Sono i boiardi di Stato, i cui redditi sono stati pubblicati ieri. Il più pagato, Antonio Manganelli, capo della polizia, 620.000 euro l'anno, poco meno del capo dell'agenzia delle entrate Emilio Befera, che guadagna più del presidente americano Barack Obama. E ancora, di, diciamo, in chiave di stipendi e ricchezze associate, è il titolo del Fatto Quotidiano. Ieri aveva incalzato il ministro Severino per la dichiarazione, appunto, dei redditi e la mancanza di una villa. La villa dimenticata, scrive oggi il quotidiano, colpa del commercialista. La ministra Severino risponde al Fatto Quotidiano: la casa sull'Appia Antica non dichiarata per un errore, ma è tutto regolare, scrive il Fatto Quotidiano, meglio così, trasparenza è fatta. Poi continua e dice: poi c'è un altro ministro, Terzi, quindi esteri, che non può negare di abitare in un immobile di propaganda Fide affittata dalla compagna, però minaccia querele. Ma non è questo il lavoro che devono fare i giornali, si interroga il Fatto. E vi dicevo, a proposito di lavoro dei giornali e ovviamente il ruolo dei giornalisti, il giornale che vi ho citato un momento fa porta un commento di Vittorio Feltri. In estrema sintesi si riferisce alla presa di posizione, appunto, di Mentana. Il titolo è: se Mentana toglie il bavaglio solo agli amici, per la causa milionaria, la sentenza appunto che di fatto colpisce Riccardo Formigli, che appunto è stato condannato a pagare alla Fiat. Dice: se Formigli è travolto da una causa milionaria, perfino tutti i mobiliti per sottolinearne l'assurdità, scrive Feltre oggi, rivolgendosi idealmente a Mentana. Ma se Carlo De Benedetti ne intenta uno altrettanto milionario a noi del giornale, silenzio totale, non un cane che abbaia. Anzi, i progressisti se la ridono sotto i baffi o peggio, si esprimono a favore di una sentenza esemplare, economicamente punitiva. Quindi questo il punto affermato questa mattina da Vittorio Feltri sulle pagine del giornale. Vediamo ancora qualche prima pagina, poi ci risentiamo per gli ultimi minuti per qualche approfondimento. Il secolo XIX è il colle, bacchetta le camere, ma anche l'IMU, i pagamenti IMU per tutti i genovesi. E invece per il giorno è proprio sui super stipendi l'apertura: sarei io il più ricco? L'immagine è quella ovviamente stamattina di Antonio Manganelli, capo della polizia. Vogliamo l'accordo, è invece l'apertura del Riformista. La Fornero apre al dialogo con le parti e lavora per la riforma. Italia respinta infine il manifesto, violate le norme europee sulle espulsioni, e questo è il, diciamo, lo scenario di massima che ritroviamo in edicola, naturalmente una parte sola delle molte testate che trovate. Infine, prima di sentire insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio, il Foglio che affronta invece, direi abbastanza solitario, il tema dell'intervento eventuale, possibile, molto appunto molto pericoloso e discutibile in Siria. Quindi la crisi siriana, un piano per Damasco, per il Pentagono l'intervento in Siria è un nuovo Afghanistan, 75.000 uomini per difendere i depositi di armi chimiche dagli estremisti, tante divisioni sulle armi ai ribelli. Insomma, la Siria come punto centrale della crisi nell'area medio orientale in queste settimane, e il Foglio dedica appunto un approfondimento sulla posizione degli Stati Uniti e sulla modalità in cui Hillary Clinton, dunque il segretario di Stato americano, ha affrontato e ha espresso quindi quella che è attualmente la posizione della Casa Bianca. Ci risentiamo tra poco. Draghi, cruciale riformare il lavoro. Vi ho ricordato questa mattina l'apertura del Sole. Il fondo è a firma di Alberto Rioli. Dice: l'accordo sulla riforma del lavoro e quello sull'allentamento della stretta creditizia consentirebbe di raggiungere un risultato potente e duplice per il ritorno della fiducia e della crescita, soprattutto se agganciati a una vera azione di liberalizzazione. Bene dunque ha fatto Mario Monti e Giorgio Napolitano a insistere per evitare assalti alla diligenza, stravolgimenti dei testi, sia al mille proroghe sia nel decreto liberalizzazioni. L'intervista appunto richiamata nella prima del Sole, intervista anche sul Corriere della Sera stamattina, Marchionne, la Fiat e l'Italia, dunque vi racconto tutto. Questo è il titolo scelto dal Corriere, l'intervista di Massimo Mucchetti, solo alcuni frammenti tra le molte domande che occupano quasi tre pagine del giornale. Dunque CGIL e Susanna Camusso: con Epifani si riusciva a ragionare di più, dice Marchionne. Camusso: forse parla troppo della Fiat di Marchionne sui media e troppo poco con noi. E ancora sproporzione tra compensi del top manager e quelli del dipendente medio, incalza Mucchetti. Un tempo non era così, lui risponde: 30 anni fa non si era ancora creato un mercato delle competenze manageriali come quelli attuali. E poi i nuovi modelli di cui spesso abbiamo sentito parlare, ma dove sono i nuovi modelli? Dunque la Fiat ha scelto di rallentare il lancio dei nuovi modelli per la scarsità della domanda in Europa, risponde. I concorrenti però fanno il contrario, e questo naturalmente Mucchetti. Ed ecco allora, dice Marchionne, che Peugeot, Citroën, Opel, Renault e la stessa Ford Europe perdono soldi nel vecchio continente. Infine sul fronte sempre caldo, che deve essere sempre caldo, del lavoro, la questione degli impianti. La Fiat ha lasciato Termini Imerese, le restano Mirafiori, Cassino, Atessa, Melfi e Pomigliano. Se non funzionassero le esportazioni verso gli USA, quali sarebbero i siti eccedenti? E lui risponde: tutti gli stabilimenti staranno al loro posto. Abbiamo tutto per riuscire a cogliere l'opportunità di lavorare in modo competitivo anche per gli Stati Uniti, ma se non accadesse dovremmo ritirarci da due siti dei cinque in attività. Quali? E a quel punto Marchionne ricorda il film Sophie's Choice, La scelta di Sofia, dice... se lo ricorda, nel film alla fermata del treno il nazista chiede a Sofì uno dei suoi due figli, in caso contrario li avrebbe ammazzati tutti e due. Sofì resiste, ma alla fine deve scegliere, passa il resto della sua esistenza con l'incubo di quella decisione. Dunque, conclude Marchionne, per favore non me lo chieda. Questo è appunto accenni dai due interventi importanti che oggi troviamo sul Sole e sul Corriere. Ma tornando al Sole, abbiamo parlato in diversi tagli di quello che è appunto il tema degli stipendi dei manager di Stato. A pagina 19 del Sole, manager, il 96% sfora il tetto in Paul Manganelli Accanzio, ma soprattutto Gianni Dragoni ci racconta come appunto manchi ancora, cioè, da un lato appunto il 96% sfora il tetto, che è già il tetto imposto e indicato dal governo, ma c'è poi anche un altro problema di trasparenza che viene così riassunto: sono parchi di informazioni i nostri superpagati manager pubblici, ci fanno conoscere le loro retribuzioni ma non quanto molti di loro percepiscono con incarichi ottenuti a latere, incarichi, si badi bene, che raddoppiano, a volte triplicano i loro stipendi di base. Eccoci qua, questo era per toccare due dei temi forti della giornata, ma ce ne sono altri anche più lievi, più complessivamente diciamo piacevoli, anche se in realtà tutti questi temi della trasparenza bisogna considerarli come tali, piacevoli nel senso che insomma non si può non apprezzare la tendenza a un cambiamento verso una maggiore trasparenza che si porta dietro tutto un carico di dibattiti e di anche magari di insofferenza su certe cifre davvero importanti, però rimane il fatto che c'è la consistenza dei numeri su cui ragionare. Dicevo, tema completamente diverso, gli italiani nel mondo, i giovani italiani alla guida del Louvre, è un'interessante storia e approfondimento che oggi il Corriere realizza sulle posizioni di vertice appunto che i professionisti italiani nel settore appunto museale occupano in quello che è sicuramente uno dei grandi musei del mondo, insomma il Louvre, che negli anni ha cambiato pelle diventando una vera e propria macchina anche da soldi, dopo essere stato per molto tempo come tanti musei, un vero e proprio carico sul denaro pubblico. Apprendiamo che, e lo vediamo plasticamente in una fotografia, c'è molta Italia in questo museo, non solo per i capolavori. Italiano è il presidente del comitato scientifico del museo, italiani sono nell'ordine per la direzione generale dei lavori, il dipartimento grafiche, responsabili della programmazione, ecco, e responsabili anche dei biglietti. A questo proposito l'articolo ci riporta, è molto lungo, quindi l'articolo di Gian Antonio Stella ve lo segnalo soltanto, ma ci segnala anche che ogni anno vengono venduti 9 milioni di biglietti, 9 milioni di biglietti, il responsabile anche in questo caso è un connazionale. Ecco, un confronto, prendendo così un passaggio dell'articolo dell'approfondimento di Stella, dice: un confronto sui costi e la gestione del museo, a parte il Cristo Patacca di Michelangelo pagato incredibilmente lo sproposito di 3 milioni e mezzo di euro, vicenda su cui è intervenuta come noto la Corte dei Conti, l'Italia da anni compra poco o niente. Stando ai dati UIL nel 2011 ha acquistato un quadro del Vasari per 168.000 euro, libri per 145.000 e opere minori varie, mentre la dotazione ministeriale del 2012 per il capitolo acquisti ed espropri è un totale di 6 milioni di euro. Bene, il Louvre per i nuovi acquisti accantona il 20% dell'incasso dei biglietti, un tesoretto da 10 milioni di euro l'anno, e sono soldi intoccabili se non per comprare nuovi capolavori, spiega Claudia Ferrazzi, che appunto ha questa responsabilità nel museo e che ci ricorda quanto sia ancora difficile investire in cultura. In conclusione, sulla Prima del Sole, un richiamo oggi: cultura, necessario tornare a investire. Vi invito alla lettura anche di questo approfondimento. Bene, siamo arrivati alla conclusione. GR24, noi ci risentiamo intorno alle 8:20. A più tardi.